24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Il 2014 sarà il nostro nuovo 1994. E torneremo a vincere per noi, per i nostri figli, per la nostra Italia. Viva l'Italia, viva Forza Italia, viva la libertà. Oh, era un po', dicevo, ce la fa, era un po', come dire, nel 94 era un po' più ritmato, ecco, però avete sentito Berlusconi, sarà l'anno nostro, vinceremo! Sono le 6:34 minuti, cari italiani, sentite queste note. Che ci accompagnano all'inizio di questa 39esima settimana decisiva per la riforma elettorale. E 39esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Io sono da sbattere via nel riciclo dell'umido, credo. Ma sono qui con voi alle 6:35 minuti, 24 mattino, riparte con Miriam Lucchetti in redazione, il nostro Carmelo Lauricella è in regia e ci seguirà tutta la settimana. È il 2014, l'anno di Berlusconi. Apriamo il Parlamento. Tutta la faccia a sentire delle radio. Oh, con finale anche, va bene. Tutta, mi ha fatto sentire tutto. Allora, voglio salutare. Mamma mia, tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Allora, saluto Vincino, eccoci, buongiorno, qua. Eccoci qua. Sei pronto? È l'anno di Berlusconi. Assolutamente, eh? Guarda. Eccoci. Poi, come ha detto Vendola ieri, ha detto per 20 anni ha governato Berlusconi. E adesso? La cosa, no, e che cavolo! Adesso? Cioè, ma proprio una come Vendola ha sconfitto la sinistra? Nessuno. Vabbè, oggi con Vendola. Si è svegliato, ce l'aveva da ieri. Ieri ha seguito Vendola, capito? Io ho seguito Milan, Cagliari-Milan e Vincino Vendola. Mi sembra giusto. Saluto Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Buongiorno Massimo, come va? Buongiorno. È l'anno di Berlusconi, sei pronto? Un altro anno di Berlusconi. Però devo dire che rispetto ad altri anni è proprio di nuovo in pista. Sì, ma l'hai sentito? Insomma, è un po' come dire, sarà l'anno di era Forza solenne, Italia. Era solenne. Solenne. Ha la faccia da statua, l'hai visto? Sì, si è fatto fotografare con tutte le rughe. È una statua, già lui così, paf. Però più che le foto mi interessa quello che ha detto al Sunday Times. Ha detto, per esempio, c'è un dramma in corso, dice, le ragazze delle sere, nessuno le affitta più un appartamento, nessuno gli dà un lavoro, ma soprattutto, caro Vincino, senti il dramma delle olgettine raccontato al Sunday Times da Berlusconi, le fermano continuamente per strada con richieste di fare sesso orale per 50 euro da uomini che dicono di non essere ricchi come il cavaliere. Capisci? È un articolo questo. Sì, oggi su Repubblica. Perché Repubblica intervista il fotografo che l'ha fotografato con tutte le rughe, eccetera. E però scrive anche quello che ha detto nell'intervista. Oh, ma qua si è dimessa la De Girolamo! Questa è la notizia del giorno di politica. Caro Vincino, si è dimesso il ministro De Girolamo. Va in India pure lei insieme a Valérie? No, va in India. Valérie è andata in India, quella di Hollande. No, non vai in India. E che devevi dire? Si è dimessa, cioè, insomma, l'hanno trattata male, non l'hanno difesa. Sì, poi, mi sono sentito poco difesa. Hanno levato il bar pure, come dire, è un disastro. Non lo so, questo è il bar dello zio. Non la registra più nessuno perché non conta più niente. La domanda è, caro De Manzoni, è l'inizio della fine del governo? Questo ci si chiede, oppure rientrerà questa vicenda? No, la vicenda non rientra, ma in realtà al di là dell'apparenza gli sta facendo un favore al governo. Gli libera un posto, Letta sta cercando di fare il rimpastino, il rimpastone, e questo è un posto in meno, un posto tra l'altro che in questo momento imbarazzava, un posto del nuovo centrodestra che è sovradimensionato a livello di Manuele Cencelli perché ha troppi ministri in rapporto alla sua forza, quindi in realtà gli sta facendo un favore, anche se poi nell'opinione pubblica c'è l'ennesimo scandalo che investe il governo. Sì, ma in realtà effettivamente pare così, cioè Letta, almeno tutti i giornali raccontano, non aspettava altro, cioè secondo alcuni era già finita la corsa al governo di Nunzia De Girolamo, l'ha solo tolto d'impaccio, capisci Vincino? Gli ha fatto un favore in pratica per evitare di farlo lui. Mi senti? Sì. Era l'agricoltura, no? È l'agricoltura, praticamente la transumanza, abbiamo visto, la fanno con le ragoste, con le cose, è tutto un altro, no? Si è adeguato. Si è adeguato. Che c'entra la transumanza? La transumanza, sì, perché in Abruzzo, no? Sì, ma cosa c'entra la ragoste? Gli altri ragoste, cose, ma no, è tutto. Cioè, io ho fotografato tutto, cioè, l'ho già disegnato quasi. Ah, la regione Abruzzo con le aragoste. Con la transumanza, con tutte queste pecore, cose, tutte aragoste, cose, 5 stelle, via. No. Non gliela faccio a starti dietro con questo, no, con questo ritmo. Ogni tanto la mattina, c'hai i neuroni troppo veloci. Ritorniamo indietro. Non lo so, c'hai i neuroni troppo veloci. Vabbè, comunque, la notizia del giorno è Nunzia De Girolamo che si è dimessa. Come la notizia del giorno è la questione della legge elettorale. Una noia mortale. Una noia, Alfano fa un'intervista a Repubblica, dice no, ma ci vuole da mettere lo scorporo, sì, lo scorporo, e Francesco Bei di Repubblica gli chiede così, testuale, ma lei si rende conto che la gente quando lei sente la parola scorporo ha già cambiato pagina? E Alfano va avanti imperterrito e spiega, no, le spiego, ma che se ne frega di queste cose, nessuno gliene frega niente. Massimo De Manzoni, fate una campagna di questo genere, non gliene frega niente a nessuno di questi tecnicalismi della legge elettorale, o no? O mi sbaglio? No, gliene frega lui, gliene frega Alfano, gliene fregano quegli altri, perché è in questi piccoli dettagli, in questi particolari, negli scorpori, nel recupero del problema, del dettaglio di maggioranza, nella preferenza con scappellamento a destra, che chiaramente fa la differenza tra entrare in Parlamento per un partitino come quello di Alfano oppure non entrare, avere un deputato in più oppure non averlo, avere peso politico oppure no. Quindi allora siamo ai resti, proprio. Ai cittadini non interessa assolutamente niente, questo è evidente. I cittadini vorrebbero un sistema elettorale più o meno funzionante, perché non ce n'è uno perfetto, quasi tutti sono più o meno funzionante, vorrei sapere, diteci se ci state ascoltando dall'estero, dove c'è un dibattito che va avanti da mesi o adesso da giorni sulla legge, sul sistema elettorale, ma ai tedeschi interessa questa cosa, gli spagnoli forse, in Ucraina o in Egitto in Ucraina hanno altri problemi adesso. Anche perché penso che siamo l'unico paese che continua a cambiare la legge elettorale ogni top anni. Sì, ma poi la gente da una vita proprio. Ma non lo so, è grande dibattito su questo. Sentite ieri, io praticamente l'ho capita così, c'è Brunetta che dice se si fa la legge elettorale si vota e c'è Renzi che dice se salta la legge elettorale si vota. Ecco, questo praticamente, cioè non si fa prima a votare. La sintonia è questa. Sintonia. Sintonia. Sentite Brunetta ieri dall'Annunziata. Penso che alla fine ci stia anche Alfano, ci stia anche Scelta Civica o quello che è rimasto di Scelta Civica, devo ancora avere chiaro il quadro della divisione dell'atomo. Detto questo, credo che ci sarà anche la Lega da questo punto di vista, per cui io penso che alla fine ci sarà un accordo ampio o si cade già domani sera. Beh, insomma, questo l'ha detto anche Renzi, o accordo, vabbè, non si fa prima andare a votare direttamente, boh, non si capisce. Questo... Eh no, perché si fa votare direttamente col proporzionale, quello puro, meraviglioso, stupendo, che io ho sempre desiderato, là andiamo che ognuno prende i suoi e basta. Per cui tu, tu desideri il proprio, ma ti rendi conto? Cioè, io perché... sono un uomo all'antica, quello costituzionale che c'era prima, no? Con i Mattarello. Radicali prendevano lo 0,8 e portavano 4 deputati. Eccolo lì. Ti facevi il partito del condominio 0,2 e dentro i deputati. I 4 deputati radicali cambiavano tutto, eh? Sì. Mica come 200 là di MP33, 5P. Cos'è MP33? Le 5 stelle, no, poi è difficile, guarda, se uno a leggerla, a dirlo, no. A proposito di radicali, alle 8:15 avrò ospite Emma Bonino, ministro degli esteri. Devi dire qualcosa. Un disastro, veramente. Ha combinato un disastro. Ecco, guarda, ecco. Ce n'è uno che salvi tu. Siria, sì, no, l'unica radicale che negli ultimi mesi, anni, giorni non mi convince tanto è. Lei, ecco, figurarsi. Oh, Massimo De Manzoni qua, Vincino, appena nomini uno del potere, Vincino subito si infervora e fanno tutti schifo per lui. È un po' così. No, non mi permette. Il problema è che quando vanno a fare i ministri si vede che cosa fanno o cosa non fanno. La Bocchino non è che abbia proprio brillato, devo dire la verità, io sono abbastanza d'accordo con Vincino, non si ricorda qualcosa di memorabile a Bonino. In compenso abbiamo i nostri Marò in India senza che succeda assolutamente nulla. C'è stato il caso Kazako. Non ha toccato palla la non ha toccato, ecco, che bel clima, insomma, che l'attende. Che bel clima qui. Ma no, perché non ce ne andiamo a prendere come nel film Argo? Ma dai, sì, ma l'ha scritto come anche ieri Libero. Ma cosa volete fare? Il blitz come gli israeliani, non lo so, cosa volete fare come il blitz? Ma agli israeliani, adesso hai già avuto una buona idea. Ieri Belpietro dice andiamo a prenderceli a qualunque costo. Cosa volete fare, De Manzoni? La guerra all'India, un ma blitz. No, la guerra all'India no, ma faccio un po' più sentire, sì, cioè non esiste una situazione come questa, no? È una roba assolutamente vergognosa. Adesso poi se ne sono ricordati, vanno a fare una gitarella a Nuova Delhi, un po' di parlamentari, sì. Ma a fare che? Cioè, a portare solidarietà. È chiaro che magari li fermassero, la battaglia andava condotta su altri piani immediatamente, coinvolgendo Vincino propone uno scambio. Vincino propone uno scambio, gli diamo 30, Casini 40, 50 parlamentari e ci danno i due Marò. Però al tribunale nostro però 30, 40 o 50, perché quanto valgono i due Marò? Là bisogna vedere il cambio come perché cambia, varia, è come il Bitcoin, no? Forse come la valuta, quella internet, tipo uno scilipoti, non so quanto. Beh, quello vale tantissimo in India. È quasi un santone nel Gange, tutti grazie scilipoti vestiti con questi panni là loro a venerare scilipoti. Dai, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Finiscila, poi devo farvi ascoltare un video, uno spot elettorale che ha fatto Antonio Di Pietro, che tenetevi forte, tra poco. 24 mattino. Volevo farti una domanda. Matteo Renzi vuole rottamare i vecchi politici. Domanda, Silvio Berlusconi è un giovane rampante promettente della politica italiana? Rispondimi. Alessandro, sono Maurizio, 66 anni. Sto respirando profondamente, si è avvicinato un giovane e mi ha strappato una collanina d'oro che avevo dalla comunione, soltanto un ricordo affettivo, non venale. Perché non mi fai telefonare dalla cancellieri che mi possa consolare? Al limite anche da Pannella, il mio numero di telefono è in chiaro. sento Grillo sbraitare la rete. Ma Grillo lo sa che siamo 20 milioni in Italia quelli che non sanno o non possono usare la rete? Alessandro, ma tu hai già pagato le tasse? Ma sei scemo? Aspettavi ancora un po' e arrivava il condono. Renzi ha paragonato se stesso a Goldrake. Mandrake, sei risentito un po'. Senti Milan, io volevo rettificare la magnifica ricetta del contadino di Terni, no? Qui non ci vuole la zappa da 7 kg, la mia ricetta sarebbe questa. Ci vorrebbero 7 kg di supposte al piombo. Praticamente così risparmieremo anche il costo della minestra scondita. Sei proprio cretino, il tuo sinonimo è cretino. Ciao. Questo sono io, non è Vincino Cretino, no, è Alino Cretino, sono io, tranquillo Vincino, sono io, credo, cioè, no, sicuramente è così. Quello che voleva farsi chiamare da pannella, magari tu Vincino c'hai il numero. Il numero in chiaro, sì. Io l'ho già fotografato, ecco. Vabbè. Vabbè. Noi lo vediamo, no? Ah, poveretto, è stato scippato, cioè era stato anche... Allora, Antonio, sentite qui, Antonio Di Pietro, forse l'abbiamo presa proprio dal sito di Libero, peraltro, De Manzoni. Antonio Di Pietro ha fatto un video elettorale, cioè è ambientato in un bar, ci sono due che parlano, c'è un barista, non si riconosce di spalle, però è Di Pietro. Ecco, questo è il contesto, dovevo spiegarlo. Sentite, per le elezioni in Sardegna... Oh, ma a votare ci vai? Che sono tutti uguali. No, non sono tutti uguali. C'è un partito che si impegna per il lavoro, la legalità, l'ambiente. Ma c'è un partito così? Oh, Tony, ma c'è? Certo che c'è. Si chiama Italia dei Valori, fidati. Vincino, di qualcosa a te, di qualcosa, perché Massimo De Manzoni lo stronca. Queste cose uscite sulle regioni in questi ultimi giorni, mesi, là, in Liguria. Cioè, ci sono due sardi che parlano, ma sono tutti uguali. Non ce n'è uno regionale di Italia dei Valori che si è salvato, uno solo. No? Vabbè, Massimo, aiutami, c'è Tonino Di Pietro che si sta rilanciando. Sono tutti uguali, c'è da un partito. L'eroica agitatrice dell'Alitalia. Sì, la Marusca Pirenda. La Marusca, pure lei. Cioè, quando entra in tale valore, poi vabbè. Come dire, si raccontano. Adesso non è che sono i più brutti, no. Sporchi e cattivi. No, Massimo, e voi? No, però. Dire che sono diversi dagli altri si fa molta fatica, ma quello Pietro, sì. Sappiamo che è in grado di dire qualunque cosa e l'ha detto. Vabbè, l'ha detta, e che deve fare? Ma invece io prima voglio tornare sul conguaglio che potremmo dare ai parlamentari per avere in mano, stavo guardando bene adesso. Ma Mastro Pasqua, dobbiamo proprio... Ne volevo parlare di Mastro Pasqua. Allora, c'è il caso, ma allora, a parte che pare che abbia le ore contate lì all'INPS, perché Letta ha detto indagate. Insomma. Ma tanto ne ha altre 24 di controllo. Sì, effettivamente non ha pochi incarichi. C'è anche Elsa Fornero che oggi sulla stampa dice io provai a rimuoverlo, ma c'erano delle resistenze. Lei aveva già gli esodati da mandare via, non potevamo andare via. Eccola, una volta se non si risparmia la battuta sulla Fornero, Massimo De Manzoni, questi di Libero, Vincino, sono terribili. Ma Mastro Pasqua è il capo del partito ministeriale, quello poltronistico, cosa che da 40 anni comanda tutto, non è che ha una forza immane, non è che è così... Vero capo del partito è lui. Ma no? Tra l'altro, come fa a accumulare tutte queste poltrone? Elsa Fornero nell'intervista alla stampa dice: immagino sia legale. Dice: credo proprio che sia possibile per legge. Perché non lo so, le ha contate oggi Sergio Rizzo, sono 15 quelle attuali. Prima erano di più, poi erano 28. Prima... lui non si fida, non delega, lui tutto, tutto il capo. È una cosa proprio. però pare Massimo che siano, no, sia il prossimo assalto, il prossimo nel senso dopo Nunzia De Girolamo, sia il prossimo caso politico, diciamo così, che prima del affronta. Governo Ma sì, il governo prima, secondo me, se vogliono. Ma no, altro che l'annuncio di Girolamo, con questo viene sul governo davvero ammanicato come deve essere. Comunque il caso più spettacolare delle sue nomine è quello di vicepresidente di Equitalia, perché lo nomina vicepresidente di Equitalia il presidente dell'INPS, è lui stesso. Stupendo, si è autonominato. Si nomina. Ha fatto una certificazione praticamente quella, un'autocertificazione. Sì. Vabbè. Salutiamo ovviamente Antonio Mastrapasqua, ci preservi le pensioni a tutti, soprattutto quella di Vincino. Perché no, io non ce l'ho ancora. Non ce l'avrai più dopo tutte le parole che hai detto. L'ultimo atto che farà Mastrapasqua all'INPS. Lui è anche presiede l'ospedale dove vado io, quello là dell'isola Tiberina. Infatti è per quello che cambierà l'ospedale, lo so, vabbè, dopo stamattina. È per quello che è finito un po' la radio 24, lui sente Rai 1, Rai 2, quelle regolari. Vabbè, lo scopriremo tra poco, lo scopriremo nel giro di un paio d'ore, caro Vincino. Intanto vi ringrazio, io devo andare al giornale radio. Valerie in India, potremmo dare Valerie Vincino al posto dei Marò. Cavolo, non c'è. Ma è francese, non è che possiamo. Ma là già gliel'hanno data in cambio, non so quali contratto per elicotteri, navi, sommergibili, portaerei. Non lo so, potevamo dare Valerie Rottweiler in cambio dei Marò, ma non vale, mi sa, questo scambio. Va bene, mi devo fermare. Vincino, grazie. Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, alla prossima, il giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:16 minuti. Forza, cari italiani, questo è ciò che resta di me. Ma dico lo schema Allegri sempre più valido. Dai, che bisogna andare a lavorare. E allora, cari italiani, io vi ricordo che oggi parleremo di attualità internazionale. Alle 8:15 avremo ospite a quell'ora, tra un'ora esatta, il ministro degli esteri Emma Bonino. Perché l'attualità internazionale tra la Siria e l'Ucraina è davvero molto molto intensa in questi momenti. Avremo anche più avanti nel corso della trasmissione, torneremo sulla vicenda dei vitalizi nella regione Lazio, che sapete è un qualcosa, una campagna che anche il Corriere ha detto vanno aboliti, e torneremo a parlarne. Avremo ospite Pietro Tidei, che è sindaco ed è anche ex consigliere, due volte parlamentare, ex consigliere regionale, no, è stato sindaco, due volte sindaco di Civitavecchia, gode credo di un paio di vitalizi cumulati. Ne parleremo con lui alle 8:15, ora a 8:45 meglio, ora andiamo a leggere i quotidiani. In questo lunedì 27 gennaio i titoli: Il Sole 24 Ore apre con la lotta all'evasione fiscale, rientro dei capitali in cerca di appeal, questo è il titolo di apertura di prima pagina. C'è anche un editoriale di Mauro Meazza, eccolo qui, dopo lo scopriremo. Mentre il caso De Girolamo è il caso politico del giorno, con il ministro all'agricoltura che si è dimessa. De Girolamo lascia il governo e accusa, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica, De Girolamo, l'ora delle dimissioni. La Stampa, De Girolamo lascia e attacca. Il Giornale, si dimette la De Girolamo e Letta tira a campare. Per Il Giorno, il governo perde pezzi. Il Secolo XIX esplode la mina De Girolamo. Mentre Il Messaggero ha un'intervista a Matteo Renzi. Renzi, riforme e si arriva al 2018. Questo è il titolo di prima pagina. Per l'Unità invece il Cavaliere alza la posta, alt del PD. Anche il Fatto Quotidiano del lunedì ha come titolo Si è dimessa, e c'è la foto di Nunzia De Girolamo A proposito di lotta all'evasione fiscale, che è l'apertura del Sole 24 Ore, io voglio citare anche quello che scrive in prima pagina del Corriere Gian Antonio Stella: i reati finanziari invisibili. Questo è il titolo del commento di Gian Antonio Stella. Noi non puniamo, la Germania sì. È un impietoso confronto di quanti sono i detenuti in Italia per reati fiscali o reati connessi all'economia, e quanti sono invece gli stessi detenuti nelle galere europee. E allora, scrive Stella, è solo una coincidenza se la Germania, il paese di traino dell'Europa, ha le galere più affollate di detenuti per reati fiscali ed economici? È solo una coincidenza se noi, che arranchiamo faticosamente in coda, ne abbiamo 55 volte di meno? Non inciderà anche questo sulle scelte di chi vuole investire in un paese affidabile? È interessante mettere a confronto, dopo le denunce della Guardia di Finanza sulla stratosferica evasione fiscale italiana, il numeri del rapporto 2013 curato dai docenti dell'Università di Losanna sulle statistiche dell'Europa, più alcuni paesi come Azerbaigian, Armenia, sui detenuti. E allora, la tabella a pagina 96-97 di quel rapporto, scrive il Corriere, dedicata alla ripartizione per tipo di reato dei detenuti condannati con sentenza definitiva, dati che si riferiscono al 2011, nelle nostre carceri solo 156 persone, cioè lo 0,4% della popolazione incarcerata, è lì per avere violato la legge in materia di criminalità economica e fiscale. Una percentuale ridicola. La media generale europea è del 4,1%, 10 volte di più. Per non dire del confronto con due paesi da sempre additati come paradisi fiscali o comunque assai ospitali nei confronti della finanza di moralità elastica. Dei detenuti del Principato di Monaco il 38% è dentro per furto, il 15% per stupro o aggressioni sessuali, ma il 23% è condannato per reati economici e finanziari. Questa quota sale addirittura al 38,6% nel Liechtenstein. E allora, perché in Italia è solo 0,4%? Fatto sta che, scrive Stella, nelle nostre carceri il 16% dei condannati con pena definitiva è dentro per omicidio, il 5,3% per stupro, il 14% per rapina, il 5,3% per vari tipi di furto, il 39,5% per droga, il 16,4 per reati vari, ma lo 0,4 vergognoso, ribadisce Stella, dei detenuti per reati economici e finanziari, incluse fatturazioni false. È la conferma di una certa idea della società che fu riassunta da Franco Frattini quando disse: i reati di Tangentopoli non creano allarme sociale, nessuno grida per strada oddio c'è il falso in bilancio, ma tutti si disperano per l'aggressione dell'ennesimo scippatore. Non va così da altre parti, continua Stella, se da noi i galeotti per reati economici sono un 35esimo di quelli per rapina e un 90esimo di quelli per droga, nelle carceri tedesche l'ordine delle priorità è ben diverso. Evidentemente il famoso giudice a Berlino, invocato dal mugliaio di Bertolt Brecht, considera lo scippo degli azionisti di qualche milione di euro più grave dello scippo di una borsetta sull'autobus. E vabbè, questo è il titolo dell'inchiesta: pochissimi detenuti per reati fiscali, quel record negativo dell'Italia. Nelle nostre carceri sono 55 volte meno che in quelle tedesche. Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere. E poi continua pagina 21. Prima di parlare del caso De Girolamo, il caso politico, certamente c'è un altro caso che rischia di animare la settimana. È il caso di Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS, ma anche tante altre poltrone. Spesso si è parlato dei tanti incarichi che ha Mastrapasqua. È anche direttore generale, per esempio, dell'ospedale israelitico di Roma, su cui è in corso un'inchiesta per truffa sui rimborsi. E allora, Enrico Letta, il Premier, ha detto: fate chiarezza sul caso Mastrapasqua. Su tutti i giornali trovate le indiscrezioni. Secondo Repubblica, Roberto Mania, il titolo esplicito è: INPS Mastrapasqua verso l'addio. Letta chiede chiarezza sull'accusa di truffa. È pronto già un commissario per l'istituto. e scrive Repubblica: Antonio Mastrapasqua non resterà a lungo sulla poltrona di presidente dell'INPS. Da una parte l'inchiesta della Procura di Roma, che ha messo sotto indagine il manager con l'accusa pesante di truffa, abuso di ufficio, falso ideologico. Dall'altra il pressing del governo su un uomo che è al vertice sia del più grande ente previdenziale d'Italia e anche d'Europa, sia di Equitalia, ne è vicepresidente, istituto per la riscossione dei tributi di cui l'INPS controlla il 49%. Pensioni, tasse, questioni delicatissime, socialmente esplosive, sono due dei pilastri sui quali si fonda qualunque patto sociale, dunque impongono che a gestirle siano persone al di sopra di ogni sospetto. Ecco, questo è l'esordio dell'articolo di Roberto Mania. Anche Sergio Rizzo sul Corriere della Sera racconta delle tante poltrone di Mastrapasqua, incarichi, nomine, l'eterno scandalo nazionale. Per la verità, Sergio Rizzo racconta, sono tanti i casi di doppi, tripli incarichi. Per quel che riguarda Mastrapasqua, oggi occupa 15 poltrone, scrive Rizzo. Qualche assaggio: la presidenza della società di gestione di fondi immobiliari Idea Fimit, la vicepresidenza di Equitalia, la presidenza dei collegi sindacali di ADR Engineering, Aquadrom ed Eurtel, Tesoro, gli incarichi da revisore nelle Autostrade per l'Italia, Coni Servizi, Loquendo. Dulcis in fundo c'è pure il posto da direttore generale all'ospedale israelitico di Roma, dove è stata aperta l'inchiesta su una presunta storia di cartelle cliniche truccate. È solo uno dei casi, ne ricorda anche altri Sergio Rizzo, come il sindaco di Arconate Mario Mantovani, alla cui famiglia fan capo oltre 800 posti letto di residenze per anziani convenzionate con la Regione Lombardia e che è anche assessore in Regione Lombardia alla sanità. Oppure il presidente della provincia di Brescia, l'ex sottosegretario leghista Molgora, che ha un posto nel consiglio di amministrazione della società che gestisce l'autostrada Brescia-Padova, o l'ex governatore della Lombardia Formigroni, ora al Senato, rimasto per mesi attaccato allo scranno di commissario generale dell'Expo 2015. Insomma, Sergio Rizzo racconta gli incarichi e le nomine dei manager, lo scandalo delle regole ignorate. C'è anche chi rediviva Elsa Fornero, ex ministro del welfare, fa un'intervista alla Stampa sul caso Mastrapasqua e dice: cercai di sostituirlo ma ci furono troppe resistenze. Intervistata da Grazia Longo, l'intervista la potete trovare a pagina 8 della Stampa. Professoressa, perché il governo Monti aveva deciso di intervenire sul ruolo del presidente dell'INPS? La sollecitazione era arrivata dalla Commissione Lavoro, dalla Commissione Lavoro della Camera e del Senato, dalla Commissione Bicamerale sugli Enti Previdenziali. Avevano fatto pressioni per un nuovo progetto di governance dell'INPS, una gestione più trasparente, meno accentrata. Questo era l'obiettivo. Ci voleva una gestione più decentrata del potere. Non si può avere troppo potere concentrato in una singola persona. Fu questa l'indicazione della commissione composta da personalità con competenze trasversali. Il loro giudizio fu unanime. Quello di Antonio Mastrapasqua era un ruolo monocratico, mentre invece occorreva una gestione più snella con responsabilità più collegiali. Eppure, alla domanda perché poi non se ne fece nulla sulla sostituzione, i misteri e i limiti della politica, risponde Elsa Fornero. Nonostante fosse stato più volte sollecitato, alla fine il cambio di governance risultò non gradito. In realtà l'attività della commissione per la nuova governance dell'INPS non era contro a favore di qualcuno, ma puntava solo a maggiore trasparenza ed efficienza dell'INPS, che svolge funzioni molto importanti. Già sottoposto peraltro a cambiamenti positivi come all'informatizzazione voluta dall'ex presidente Gianni Viglia. Ma insomma, dice Elsa Fornero, abbiamo provato, ma le resistenze, quando si trattava di cambiare per gli esodatili, di resistenze e creare gli esodati, non ce ne sono state moltissime, oppure ce ne sono state ma non hanno portato grandi risultati. Come la vede il Fatto Quotidiano a pagina 4, la vede così: Letta nipote molla il protetto di Letta zio. Ecco, il titolo è brutale, per dire, secondo il Fatto Quotidiano, che Enrico Letta è pronto ora a sostituire Mastrapasqua, che era il protetto di Gianni Letta. Va bene, ripartiamo dopo la pubblicità con il caso politico del giorno, vale a dire le dimissioni anche abbastanza improvvise arrivate ieri del ministro dell'agricoltura Nunzia De Girolamo. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora il caso De Girolamo, che è il titolo su tutti i giornali. De Girolamo lascia il governo e accusa: sono stata trattata male. Questo è il concetto. Letta non mi ha difeso. Leggo per esempio a pagina 2 del Corriere della Sera Ernesto Menicucci lo strappo a sorpresa con un addio polemico al governo. Nunzia De Girolamo dice basta, addio al governo, al Ministero delle Politiche Agricole. Dopo settimane passate sulla graticola per l'inchiesta dell'AS di Benevento ha comunicato: ho deciso di lasciare il Ministero e di lasciare un governo perché la mia dignità vale più di tutto questo ed è stata offesa da chissà che non ho fatto nulla. Avrebbe dovuto spiegare perché era suo dovere prima morale e poi politico. Non posso restare in un governo che non ha difeso la mia onorabilità. Certo, c'è da dire che in settimana era attesa dalla mozione di sfiducia. C'è da dire, qui si sprecano in retroscena, d'altronde la notizia politica del giorno è questa, che dovete fare. A pagina 3 del Corriere della Sera Tommaso Labate racconta la giornata di ieri di Nunzia De Girolamo. Volete sapere che ho fatto tutto il weekend? Ho lavorato da ministro dell'agricoltura al completamento del collegato agricoltura alla legge di stabilità, con risultati riconosciuti da tutti, Coldiretti, Assocarni, chiedete, ho fatto il mio lavoro. E però, dice, da presidente del consiglio mi sarei aspettata una difesa diversa. Così si sfoga Nunzia De Girolamo tra le mura di casa. Che sia chiaro, le dimissioni, e qui dice una frase ai suoi che appare un po' improbabile, non hanno nulla a che fare con l'inchiesta sulla ASL. Dice questo Nunzia De Girolamo, ma al contrario, come cittadina mi sento protetta dalla magistratura che dal primo momento ha sempre fatto chiarezza su tutto. Queste sono dimissioni politiche e da stasera sarò più libera da difendermi da tanti sciacalli che stanno dietro questa storia. Sta di fatto che prima di fare questo passo pare abbia chiamato, così scrive la stampa, sia Enrico Letta sia Silvio Berlusconi. Da Enrico Letta ha ricevuto una risposta abbastanza fredda, e cioè dobbiamo chiarire la situazione, questa situazione va chiarita, occorre che la vicenda si chiarisca meglio. Questo secondo retroscena di Fabio Martini, le parole ricevute da Enrico Letta, mentre Berlusconi gli ha detto Nunzia torna, le porte sono aperte, perché da questo si vocifera anche da ieri, e cioè che Nunzia De Girolamo possa fare un secondo passo politico, cioè lasciare il nuovo centrodestra dove è approdata e tornare a Forza Italia da Berlusconi. Secondo Repubblica, Alberto D'Argenio, Letta non sapeva delle dimissioni. L'ultimo scontro tra i due faccia a faccia è stato con Nunzia De Girolamo, che ha detto mi devi difendere come hai fatto con la cancellieri o me ne vado, e poi alla fine sei stato ambiguo, ora me la cavo da sola. Mentre secondo il Corriere della Sera il premier è sereno nel retroscena di Marco Galluzzo, perché in fondo aveva già deciso. Per Nunzia De Girolamo l'esperienza di governo era arrivata al capolinea già da qualche giorno comunque, e dunque questo avrebbe tolto l'impaccio Letta nel decidere. Appassionante come vicenda politica, lo so che avete lasciato tutti sospesi un attimo il cappuccio per dire aspetta, sentiamo che succede. Annunzia De Girolamo, tutti sospesi con questo thriller, no? E tra l'altro c'è Angelino Alfano, intervistato da Francesco Bei su Repubblica, parla delle dimissioni, certamente dice si aspettava un'attestazione più calorosa da parte del Presidente del Consiglio, poi inizia a parlare in un linguaggio francamente incomprensibile a qualsiasi cittadino italiano della legge elettorale, tanto che anche Francesco Bei, nel mezzo dell'intervista, quando Alfano dice sulla legge elettorale puntiamo a una sorta di modello tedesco, un compromesso col 50% di liste con preferenze e il resto bloccate. Il terzo emendamento è importantissimo. Sentite, importantissimo, lo presenteranno oggi. Prevede lo scorporo dei voti dei partiti coalizzati che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento. Al che Francesco Bei si arrende e dice: lei si rende conto che il lettore alla parola scorporo ha già girato pagina. Allora è vero, come dico io, cari ascoltatori, che io quando leggo le cose, vedo i titoli sulla legge elettorale, giro pagina. Gli stessi addetti ai lavori, sia Francesco Bei che lo chieda ad Alfano, lo ammettono. E però Alfano no, spiega, è molto semplice, il leader della coalizione non può contabilizzare per arrivare al ballottaggio. No, giriamo pagina assolutamente, perché non saprei neanche ripetervela se non parola per parola. E giriamo pagina e andiamo al Messaggero. Il Messaggero oggi propone a pagina 3 un'intervista a Matteo Renzi, che è il titolo comprensibilmente di prima pagina del Messaggero, e Matteo Renzi attacca sulla questione delle riforme, a dire le riforme vanno fatte. Se si fanno le riforme, il governo può arrivare perfino al 2018, così Matteo Renzi. Se questo Parlamento, intervistato da Marco Conti, vota la legge elettorale, arriva ad avviare una stagione costituente e può arrivare perfino al 2018. Se invece affossano la riforma elettorale sfruttando il voto segreto, andiamo subito a votare con la legge elettorale, con la legge proporzionale. Così Matteo Renzi. Ah, tra l'altro, apro parentesi, siamo all'inizio della 39esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Che dite, Matteo Renzi ha vinto la scommessa che aveva fatto con me? Non lo so, certo, il discorso è avviato, ma io intendevo che la riforma elettorale ci fosse, e invece non c'è nulla. Siamo anche all'inizio della 39esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Continua Renzi nell'intervista al Messaggero. Io mi occupo di riforme, lavoro, taglio ai costi della politica. Il governo e i ministri sono un problema di Letta. Parla poi di riforma elettorale, le preferenze, insomma le solite cose che non capiscono gli italiani e non interessano. E poi sulla questione Renzi, in incontro con Berlusconi, il sindaco di Firenze, segretario del PD, dice alla domanda: tra gli inconcludenti degli ultimi 20 anni c'è pure Berlusconi? Beh, se si fa tutto posso sempre dire che lui ci ha messo 20 anni, io 1 mese e mezzo. Ora però c'è una parte del PD che dice: siccome piace a Berlusconi, questa riforma non si deve fare. È un atteggiamento che denota una sudditanza culturale e psicologica da correre il rischio di dover chiamare il medico. Così risponde Renzi. Però col Cavaliere molti suoi colleghi sono rimasti fregati. Chi dice siccome piacciono a Berlusconi non piacciono a me ha consegnato la propria coscienza e intelligenza, il proprio spirito critico, mani e piedi al Cavaliere. È una forma di subalternità intellettuale. Berlusconi c'è e ci sarà finché milioni di italiani lo voteranno. Una parte della sinistra deve fare i conti con questo dato di fatto. Non è un prodotto della nostra immagine, ma un politico che da 20 anni prende voti dei nostri concittadini. La legittimazione di Berlusconi non la dà Vendola, non la dà Bersani, non la dà Renzi, ma milioni di italiani che lo votano. E come è noto, gli alleati si scelgono, gli avversari no. Così Matteo Renzi. E alla domanda ancora finale: qualcuno sostiene che lei abbia fretta di andare al voto? È proprio il contrario, risponde. Il mio destino personale viene dopo la possibilità di fare le riforme e cambiare le regole del gioco. Non mi interessa portare all'incasso della campagna elettorale il consenso di oggi, mi interessa cambiare l'Italia. Sta di fatto che Renzi dice e ribadisce: se non si fanno le riforme si vota. Brunetta dall'altra parte dice: se si fanno le riforme alla legge elettorale si vota. Ecco, questo per capire, caro Mauro Meazza, come andiamo tutti d'amore d'accordo. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buona buongiorno. Settimana. No, allora, non ho capito niente, ho capito che è una settimana decisiva. Oggi, se vuoi, c'è Alfano che ti spiega lo scorporo sull'intervista di Repubblica. Io ho girato pagina. Lo leggo con molto interesse. No, perché anche l'intervistatore gli dice: ma lei si rende conto che appena sentono questa parola i lettori girano pagina? Cioè anche loro lo sanno. Però lui: no, le spiego. Io ho girato pagina, però. So. Una missione importante. No, guarda, è una settimana decisiva, volevo dirti, però molto più modestamente, per carità, non per la legge elettorale, ma perché, come spieghiamo oggi su Sole 24 Ore, entro questa settimana finisce l'invio dei dati dei conti correnti al fisco per costruire questa super anagrafe, andare avanti nel costruire questa super anagrafe tributaria. Quindi entro questa settimana devono essere inviati i dati sui movimenti del 2011, è importante perché poi da lì deve partire tutta un'attività di contrasto all'evasione, così come, ed è il nostro titolo principale di oggi, così come è importante in chiave di lotta all'evasione e recupero di risorse le misure, la misura per il rientro dei infatti, capitali. Ti hanno fatto pure scrivere all'editoriale oggi sul Sole 24 Ore, leggo qui di Mauro Meazza, lo conosci? No, non lo conosco e comunque non so se è persona affidabile, ma mi sembra che sia uno che parli tutte le mattine con altri personaggi di loro, dubbio gusto, di dubbio gusto, sì. E volevo dirti, è una settimana decisiva perché questa settimana c'è Telefisco. Giovedì c'è Telefisco, quindi è importante, ne parliamo oggi diffusamente dei vari temi, delle novità fiscali e poi appunto per tutto il pubblico che si interessa delle questioni fiscali, delle questioni anche operative, dolorosamente operative viene da dire, è un appuntamento molto importante, quindi per noi è una settimana decisiva, per la riforma elettorale le province non ci risultano in questo momento, però può darsi che ci sia sfuggito qualcosa. No, è la settimana decisiva, la 39esima, è una settimana decisiva anche per chi deve iscrivere i figli a scuola, perché lo so bene, grazie. Ecco, da questa settimana c'è la possibilità dell'iscrizione online, siccome già l'anno scorso era stato un discreto pasticcetto. Abbiamo oggi 4 pagine di guida proprio alle cose da fare questa settimana e anche poi quello che ci sarà da preparare per le prossime, per completare questa iscrizione. Ecco, in questo senso è una settimana, mi sicuramente sento di dire, questo lo confermo. Caro Mauro, dobbiamo parlare. Ieri una tua collega Silvia Brasca del TG della 7, che condivide con te una passione insana, mi mandava dei messaggini ironici alla fine del primo tempo delle partite di calcio. Io poi non l'ho sentita più al 90esimo. Ne sai qualcosa tu di come sono andate le partite di calcio ieri? No, non conosco Silvia e comunque penso che sia una settimana decisiva anche per il calciomercato, no? Sì, pare che finisca questa settimana. Adesso io non sono informatissimo, abbi pazienza sul calcio, poi come hai detto ho dovuto occuparmi del rientro dei capitali, certo. Di misure. Allora altre, facciamo insomma. Così, tra poco leggo il titolo della Gazzetta dello Sport, conosci? Ti ascolto molto, molto volentieri. Grazie, noi ci sentiamo domani, Mauro Meazza, dopo, prima della Gazzetta dello Sport, però c'è un Berlusconi in gran spolvero, ancora c'è il dibattito perché Berlusconi si è fatto fotografare dal Sunday Times con le rughe, no? Con le rughe, non truccato, e quindi dopo il traffico parleremo, e Repubblica ancora si concentra su questa cosa, ma soprattutto su quello che ha detto Berlusconi al Sunday Times. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora alle 7:47 minuti Silvio Berlusconi si rilancia, l'abbiamo fatto sentire alle 6:30 dicendo sarà un nuovo 94, 2014 vinceremo ancora noi, ma Repubblica si concentra ancora, ragazzi, sono giorni così disperanti in cui i giornali si concentrano, Silvio Berlusconi che si è fatto riprendere senza trucco, no? Ci sono queste immagini all'inviato del Sunday Times per la prima volta, per la verità, come scrive Repubblica con Enrico Franceschini, ancora il giornalista scrive: da vicino vedo tracce di fondotinta sul suo volto, quindi proprio come natura lo ha fatto non gliela fa, un po' di fondotinta c'era, ma soprattutto Berlusconi dice, Repubblica dice le stesse cose al Sunday Times, tra cui le cene legali del Bunga Bunga, un'idea di Emilio Fede, così dice Berlusconi, ma lui fortunatamente non ho mai dovuto pagare per il sesso. Ruby disse di essere egiziana, imparentata con Mubarak, aver 24 anni, e poi delle cosiddette olgettine dice: ora poverette sono devastate, non trovano un fidanzato, un lavoro, qualcuno che affitti loro una casa, e vengono continuamente fermate per strada con richieste di fare sesso orale per 50 euro da uomini che dicono di non essere ricchi come il cavaliere. E questo al Sunday Times. E poi c'è un'intervista al fotografo che come è riuscito a convincere Berlusconi a farsi fotografare senza trucco. Questo su Repubblica a pagina 8. 8 e 9. Allora, l'attualità internazionale oggi. Noi avremo alle 8.15 il ministro Emma Bonino, ministro degli esteri, ospite per parlare certamente di Siria, dove è stato trovato questo accordo, qualcuno dice un accordo a ribasso, da Ginevra 2, dalla conferenza in cui i siriani e l'opposizione sono trovati di fronte, non senza difficoltà per alcuni giorni. Un accordo che prevede donne e bambini fuori da Homs, una sorta di corridoio umanitario fatto per cercare di almeno preservare le fasce della popolazione più deboli da questo conflitto. Damasco però vuole i nomi dei ribelli, c'è una sorta di prima intesa, anche se debole intesa, tra l'opposizione e il regime di Assad. Sta di fatto che la situazione è davvero, leggevo per esempio il titolo di Repubblica, ancora molto molto complicata per quel che riguarda l'attualità internazionale, come complicata è anche certamente in Ucraina, dove Yanukovych ormai ha serragliato nei palazzi del potere, questo secondo per esempio un reportage della Stampa che vi segnalo, di Mark Franchetti, in prima pagina: Yanukovych farà la fine di Ceausescu, ricordate il dittatore della Romania di tanti anni fa, e questo almeno titola la Stampa, a capire che la situazione è una situazione sempre più di tensione sociale, ormai di guerra civile, che rischia di allargarsi sempre più, questo in Ucraina. Per quel che riguarda la cronaca italiana, ancora sui giornali c'è la vicenda degli immigrati a Ponte Galeria. Nuovamente alcuni immigrati si sono cuciti le bocche cucite con il filo e l'ago, rifiuto del cibo, nuova protesta al centro di Roma, così il titolo del Corriere a pagina 16. Usare lo stesso ferro per tutte quelle labbra non è certo una buona idea, diceva Adiel, infilandosi nella fila di chi aspettava di cucirsi, ma niente, sabato sera sono andati avanti a trafiggersi, a chiudersi la bocca con lo spago colorato, a passarsi l'ago insanguinato. Questa è la protesta estrema all'interno del centro di identificazione e espulsione. Arriva anche il senatore del PD Luigi Manconi in questa assolata e gelida domenica mattina. 13 immigranti con la bocca cucita attorno a un tavolo all'esterno, con le sbarre che circondano l'area, e poco più in là il niente, la campagna, un'ombra di mare. Anche per Repubblica la protesta dei migranti di Ponte Galeria: peggio che in carcere, torna la protesta delle bocche cucite all'interno del centro di identificazione ed espulsione. Questo è il titolo. Mentre vi segnalo la conferenza stampa, nonché l'intervista che Franco Gabelli, portavoce, il capo della Protezione Civile, ha fatto al Quotidiano Nazionale. Lancia l'allarme rosso: senza soldi, il fondo da 70 milioni è già finito e siamo a gennaio. Tra l'altro arrivano la perturbazione con il freddo al nord della neve anche nelle grandi città a partire da oggi, pare. Eppure, dice Gabrielli, è già finito il fondo di quest'anno e siamo al 27 di gennaio. Servono subito 90 milioni. Vabbè, eccola qua la Gazzetta. Toir, capito che aria tira? E c'è una foto di Toir, Moratti e Tronchetti Provera che... le facce ve le lascio immaginare, vabbè, ma insomma delle facce serie, a dir poco serie, ecco, questo è la chiusura, il commento che si può fare alle foto di Toir, Tronchetti Provera e Moratti ieri in tribuna San Siro. Va bene, ma comunque siamo al momento decisivo. Ecco, parli male dell'Inter, mi arrivano subito le maledizioni e peggiora la situazione seduta stante. Siamo al momento conclusivo della rassegna stampa, siamo al momento del premio più ambito, l'articolo più inutile scovato sui giornali, vale a dire la carta costa. E oggi c'è un commento di Melissa P, una praticamente intera pagina sul giornale a pagina 16, che prende spunto da che cosa? Immaginate da che cosa? Valerie Hollande, basta questa vicenda. Tra l'altro lei se n'è andata pure in India. Il titolo del commento è l'impossibile ipocrisia di restare amici con l'ex. Un'intensa analisi, nonostante Valérie parli di buoni rapporti con Hollande, questa, scrive Melissa P, è una frase che sa di falso rito borghese, perché la persona che ci ha lasciato è la nostra partita persa. È tutta un'analisi sul fatto che non si può essere amici degli ex. Ma chi se ne frega? Melissa P e il giornale, dai, lasciate Valérie in India, lasciatela lì e basta. E ricordatevi che la carta costa. Noi andiamo al giornale radio, riprendiamo alle 8:15 col ministro degli esteri Emma Bonino. Mattino. Siamo qui alle 8:17, ben ritrovati da Alessandro Milan per parlare di attualità internazionale, che è un'attualità che dà molti spunti e notizie, a cominciare da quello che succede in Siria, o meglio la trattativa che si fa in Svizzera per la situazione difficile in Siria. E da qui partiamo con l'intervista al ministro degli esteri Emma Bonino, che torna ai nostri microfoni e che saluto e ringrazio. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Allora, si è concordato in Svizzera che ci sia un accordo, un corridoio umanitario per almeno la città di Homs, per preservare donne e bambini, nei dialoghi molto difficili, peraltro, tra Damasco e l'opposizione. Ecco, a questo proposito, qualcuno parla in realtà di piccolissimi passi e di mezzo fallimento. Secondo lei la situazione è un giudizio troppo impietoso su questo? Ma io credo che sia un giudizio frettoloso, ovvero di chi riteneva che il processo politico che si è messo in moto martedì potesse avere, non so, con che svolgimento rapidissimo. Io non ho mai creduto che fosse così. Basta ricordare qualunque conferenza di pace, basta ricordare quella sul Kosovo, durarono settimane per non dire mesi. E infatti la cosa più urgente per chi come me pensa che questo sia lo scenario possibile è invece insistere sul accesso umanitario, perché nel frattempo, mentre ci si riunisce in molte parti, arrivi qualcosa di tangibile immediatamente al popolo siriano, che è stremato da 3 anni di guerre e bombardamenti. Cioè, il minimo indispensabile che si riesce a fare è questo in questo e momento. Quindi questo è un primo segnale, devo dire, che necessita ancora di qualche passo in più. È chiaro che per uscire uomini e donne e anche uomini, perché la questione degli uomini è stata posta in senso che il governo ha chiesto la lista delle persone che devono uscire, sì. Ma il tutto deve anche essere verificato o monitorato, proprio per dar fiducia a queste persone che, uscendo dalla città stremata, non vengano poi o arrestati o altro di questo tipo. Per altri versi invece è bloccata ancora la situazione al campo palestinese di Yarmouk, nonostante il governo avesse dato un'assicurazione all'Agenzia delle Nazioni Unite di poter entrare sin dal 18 gennaio. Quindi, come vedete, la situazione ha dei piccoli spiragli, ma complessivamente bisogna insistere ancora molto per arrivare, secondo me, ad un cessate il fuoco più generale. Ecco, altrimenti ci si chiede tra l'altro quale futuro per la Siria. Gli americani hanno ribadito: nel futuro della Siria non c'è posto per Assad. La linea dell'Italia qual è? Che la nostra posizione, in applicazione a Ginevra 1, che diceva, che parlava di un'istituzione, di un governo di transizione coi pieni poteri, ma non diceva una parola sulla questione di Assad in particolare. Noi crediamo che siano gli stessi due delegazioni che devono decidere. Certamente la posizione di Assad, con le ultime, diciamo, documentazioni che stanno uscendo di torture, è davvero insostenibile, ma credo che questo debba arrivare alla fine, diciamo, del processo negoziale. E dagli ultimi contatti che io ho, credo che di questa questione e del governo di transizione si comincia a parlare. Cioè, stai dicendo oggi, che Assad comincia anche a pensare a una sorta di fuoriuscita, di negoziare. Ma credo anche che gli stessi alleati di Assad comincino a porsi essi stessi dei problemi, ma ripeto, questo deve essere, secondo me, verso il punto finale del negoziato. Sì. Io non vorrei che nel momento poi in attesa di questo venisse meno un po' la pressione sulla questione delle milioni di persone, perché non è solamente l'accesso in Siria, che già è molto difficile, come dicevo, è la questione del milione di rifugiati in Libano, dove andrò settimana prossima, la questione di ormai di una situazione insostenibile anche per la Giordania, il che vuol dire che di tutta evidenza, se non si risolve e non si affronta anche questa questione, l'intera regione rischia di crollare. Senta. Ed è per questo, credo, che la riunione a livello politico sull'umanitario che le Nazioni Unite hanno chiesto di ospitare a Roma lunedì prossimo, e che faremo con grande determinazione, assume un rilievo molto, molto importante, proprio perché non venga lasciato il tutto solamente a Ginevra, ma continui il dato a Brahimi, un negoziato assolutamente importante evidentemente, ma continui una pressione internazionale che, devo dire, fino ad ora in termini di mobilitazione d'opinione pubblica stranamente non è stata... non è stata molto, molto potente. No, non ci sono state manifestazioni. Senta, a questo proposito, si sa quando arriveranno per il transito a Gioia Tauro le navi che trasportano parte dell'arsenale chimico siriano da smantellare? Cioè... Ma presumiamo, si presume, ve le spiegherò perché si presume, gli inizi di febbraio, si presume perché i materiali raccolti devono andare via terra da Homs a Latakia e poi essere imbarcati sulle navi, le due navi danesi, eccetera. Questo tragitto per ora è stato fatto da poco materiale, la nave danese ne ha caricate solo 9 tonnellate o 9 container, se ricordo bene, proprio perché la strada è ancora insicura, ma in realtà c'è chi ha il timore, credo condivisibile, che sia lo stesso regime di Assad che rallenta questo ma diciamo inizio di febbraio, ma sì, ovviamente è una data più o meno verosimile. Le chiedo anche che l'agenzia dell'OPAC avrà un consiglio straordinario, l'agenzia che si occupa di distruzione di armi chimiche avrà un consiglio straordinario proprio in questa settimana per tornare a fare il punto di dove e quando sarà possibile imbarcare l'intero stock di questi materiali tossici per poter fare i trasferimenti e poi l'idrolisi e poi lo smaltimento finale in Germania, Inghilterra ed altri paesi che si sono offerti. Le chiedo, Ministro, però, se si sa qualcosa anche invece della sorte del padre gesuita, padre dell'olio, che era stato sequestrato. Non si hanno notizie, anche se si sperava e si spera, essendo in quella zona stati sequestrati anche altri esponenti e persone europee, che l'avvio di questi negoziati potesse anche aprire qualche spiraglio ad una maggiore informazione, ma nonostante tutti i nostri sforzi d'intesa con gli altri servizi europei, che ripeto sono parecchie le nazioni che hanno cittadini sequestrati in quella parte del territorio, ad oggi non abbiamo avuto, diciamo, non ci sono ulteriori notizie. Informazioni. Senta, venendo all'Europa, preoccupa moltissimo la situazione in Ucraina, visto che ieri addirittura hanno occupato il Ministero della Giustizia, cioè c'è il rischio di una rivolta civile come il presidente Yanukovych ha serragliato. Ma ha senso che un presidente così rimanga? Ma evidentemente per le decisioni prese, per la repressione usata, per le leggi promulgate, anche se ieri c'era un'apertura al ritiro di quelle leggi, pone Yanukovych ovviamente in una situazione quasi insostenibile. Domani o dopodomani ci sarà il vertice Unione Europea-Russia a Bruxelles, che già aveva tutta una serie di altri problemi, e io credo sarà quello anche un'occasione, dai contatti che ho almeno con l'Europa e con l'Austria, sarà quella anche un'altra occasione per continuare la pressione che stiamo facendo a tutti i livelli, sia a livello Kiev, sia a livello ovviamente Mosca, per una soluzione, intanto perché appunto si ponga fine perlomeno alle violenze e al tipo di repressione. Rimane il fatto che ormai viene molto chiaro che certamente c'è una parte della popolazione in piazza che guarda all'Europa, ma ormai è anche evidente tutta un'altra serie di personaggi e di attori che in realtà rappresentano, come dire, un nazionalismo molto spinto da altri versi, e che sono in piazza non tanto per adesione all'Europa, ma in una funzione di netta opposizione al regime, alla corruzione. Però, secondo lei sono sul tavolo anche possibili sanzioni nei confronti dell'Ucraina? Ma questo non è, insomma, è stato chiesto da Schulz. Credo che l'Europa intera debba fare una riflessione su questo, perché è sempre facile dichiararle, non è stato mai facile in modo coordinato applicarle, ma non mi sembra per il momento sia la strada da seguire. Senta, mentre stiamo parlando, per arrivare a concludere, c'è la vicenda dei Marò. Sa che alcuni, sì, c'è una, ci sono una delegazione di parlamentari proprio, sì, in questi, certo, istanti stanno parlando con i Marò. Sì. Qui molti giornalisti anche chiedono e imputano all'Italia una linea troppo debole, troppo sulla difensiva, e chiedono, come dire, una maggiore aggressività diplomatica, ovviamente, per risolvere la situazione. Sì, non ho mai capito bene cosa voglia dire. Quello che io so è quello che noi abbiamo fatto, ed è stato quello non solo da una parte di, una volta rimandati i Marò in India, ovviamente presa da altri, da altro governo, di seguire tutte le strade possibili, ma anche quella di coinvolgere l'intera Europa. Non era proprio facilissimo, diciamo così, che ha cominciato a seguire il caso, e tant'è vero che proprio venerdì, il 24, lo ha sollevato nel dialogo Europa-India. Ed è certo che se si manifesta che gli stessi colleghi europei finalmente sono convinti del fatto che in una situazione in cui dopo 2 anni non c'è neanche il capo d'accusa per 2 militari che certamente non sono terroristi di tutta evidenza, ma rappresentavano in base ad una legge più che discutibile, su cui come radicali votammo contro, per cui una parte dell'apparato dello Stato sta su una nave civile, ma insomma parte questa situazione di cui siamo all'origine, sono all'origine anche personaggi che adesso si agitano molto. Credo che sia a livello Nazioni Unite che abbiamo interpellato l'Alto Commissario per i diritti umani proprio per questa situazione di 2 anni senza mandato, senza capo di imputazione. Io credo invece che la nostra linea sia stata quella, magari non degli urli, diciamo così, ma certamente una linea molto coordinata, senza slabrature, con una posizione solida anche dal punto di vista giuridico. I nostri Marò sono seguiti dall'avvocatura dello Stato, oltre che dai più importanti legali indiani. Io credo, invece mi permetto di dire, che secondo me questa era la strada da tenere, da però insomma evidentemente la situazione è molto complicata. Ma a chi si riferisce quando dice che alcune persone che agitano adesso le cose hanno creato in parte? Mi riferisco alla legge La Russa, tanto per intendersi, anzi al decreto missioni La Russa, che fu proprio quel decreto che prevedeva inopinatamente dei militari su navi civili senza stabilire per bene le linee di comando. Ma insomma tutto questo sarà utile rivederlo a conclusione, io credo, positiva della vicenda, perché certamente l'intera gestione fin dall'inizio è una gestione che lascia dei punti sicuramente da chiarire, perché mai la nave sia tornata in porto e abbia lasciato le acque internazionali. Ma tutto questo, dicevo, secondo me è molto utile riaprire il dossier a conclusione positiva. A conclusione positiva vicenda. Si spera sui tempi, io glielo chiedo tutte le volte, lei mi dice sui tempi, l'ultima cosa che si possono fare. Quello che tempi. Io so adesso è che sappiamo tutti, è che il nuovo ricorso che abbiamo fatto verso la Corte Suprema ha riordinato alle autorità indiane di produrre il capo di imputazione in modo che possa iniziare il processo entro il 3 febbraio. E questo è lo snodo. Io spero e penso che questa delegazione parlamentare, se sarà appunto una delegazione che è andata ad esprimere solidarietà ai nostri Marò e l'impegno che c'è un commissario straordinario e sono implicati in 3 o 4 ministri, ma questo dimostra solo che non è facile, come dire, imporre le nostre le opinioni e le nostre convinzioni una volta che uno, come dire, ha lasciato che la nave rientrasse, eccetera, eccetera. Certo, eccetera. L'ultima domanda è politica, insomma, visto che il ministro De Girolamo si è rivesta, teme un rimpasto, teme che il governo rischi qualcosa a questo punto? Beh, io penso che di rimpasto, almeno anche da lontano e occupandomi, come si fa per dire, d'altro, ne ho letto sui giornali negli ultimi giorni. La decisione di Girolamo mi ha sorpreso ieri sera, non avevo avuto sentore, probabilmente oggi sarà più chiaro, ma ripeto, di rimpasto, rimpastino, non so, insomma, nei giornali ne ho letto da parecchi giorni. Questo sì. La ringrazio per essere stata con noi. Grazie. Ministra degli Esteri Emma Bonino, ai nostri microfoni. Noi dopo la pubblicità approfondiremo qualche minuto questa questione, insomma, avete sentito anche della Siria, di queste navi che arrivano. Cosa arriveranno presumibilmente a inizio febbraio le navi in transito a Gioia Tauro, in transito, e contengono l'arsenale chimico siriano da smantellare secondo gli impegni che ha preso Assad. Esattamente quando diciamo materiale chimico da smantellare, cosa vuol dire? Perché questo ha destato della preoccupazione. Ne parleremo con Gianandrea Gaiani tra pochissimo, e poi credo parleremo ancora in conclusione di trasmissione dei vitalizi della regione Lazio. Questo per concludere. State con noi, riprendiamo tra poco. 24 mattino. Siamo qui alle 8:38 minuti. Allora, dopo la chiacchierata con il ministro degli Esteri Emma Bonino, dalla quale abbiamo scoperto che presumibilmente a inizio febbraio arriveranno in transito dalla Takia a Gioia Tauro le navi che trasportano parte dell'arsenale chimico del regime di Assad da smantellare, allora vogliamo capirci qualcosa di più. Perché? Perché questo ha destato ovviamente un po' di preoccupazioni. Io voglio salutare Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa, editorialista anche del Sole 24 Ore. Buongiorno Gaiani, eccoci qua. Buongiorno a te, gli ascoltatori. Allora, dobbiamo capire perché tu hai fatto un articolo molto molto chiaro di recente su Sole 24 Ore, perché su queste cose se no si ragiona sempre sull'onda dell'emozione e mai sull'onda della ragione. Intanto, queste navi quanto e che cosa contengono? Ma dovrebbero contenere la nave danese che dovrebbe venire a trasferire il suo carico sulla nave americana, sulla quale poi si effettuerà una nave militare, le lavorazioni, diciamo così, per neutralizzare questi agenti, questi aggressivi chimici, dovrebbe portare in Italia, nel porto di Gioia Tauro, 560 tonnellate di che cosa? Di componenti dei gas nervini, probabilmente anche dell'iprite, cioè delle armi, dei quei componenti che miscelati insieme producono le armi chimiche che facevano parte dell'arsenale. Ecco, intanto chiariamo, è un arsenale già smantellato, cioè sono allora, armi che... neutralizzato. I prodotti individuati e stoccati sono stoccati in sicurezza a cura dell'organizzazione mondiale che ha maggiore capacità tecnica su questo argomento, appunto, che è l'OPAC, che si occupa dell'Organizzazione Mondiale per la Proibizione delle Armi Chimiche. Qui i tecnici faranno supervisione, non solo hanno fatto supervisione nei depositi di Bashar Assad alla neutralizzazione delle armi, alla messa in sicurezza dei prodotti chimici, chiamiamoli così, ma fanno supervisione anche alla sicurezza dell'imbarco di questi prodotti nel porto di Latakia in Siria, un imbarco difficoltoso perché il governo siriano ha già denunciato un paio di attacchi dei ribelli. Infatti anche il ministro Bonino ci diceva poco fa che anche il trasferimento al porto di Latakia è un trasferimento che non si sa quanto ritardato da Assad volutamente. Non si sa quanto ritardato per i rischi, insomma, è un qualcosa di... Poi diciamo questo, è la prima volta che si attua un disarmo di un arsenale chimico o anche di qualunque altro tipo di armi di distruzione di massa in un paese in guerra. Non è mai successo prima. Quando si fece un'operazione simile con gli arsenali di Saddam Hussein, la guerra era già terminata, lo fece un gruppo di osservatori, di tecnici delle Nazioni Unite. È la prima volta che si tenta un'operazione del genere, così come è la prima volta che si cercherà di neutralizzarle in mare. ecco, ecco, nave, esatto, allora arriveranno queste 570 tonnellate per il trasbordo da questa nave danese alla nave americana destinata allo smantellamento. Intanto le operazioni prenderanno quanto tempo, più o meno? Allora, qui andiamo sui problemi, che ecco, sulla causa, anche una delle cause sicuramente delle polemiche. Si è parlato di un'operazione che durerà 24-48 ore, allora credo che questo sia veritiero, nel senso che se la nave al futuro arriverà con tutto il suo carico e lo riuscirà a sbarcare, qualcuno dice sul molo, e poi il carico, i container verranno trasferiti al molo più vicino dove ci sarà la nave americana e reimbarcato con le gru, qualcuno addirittura dice, io ci credo poco onestamente, che il carico non toccherà il suolo italiano, quindi da nave a nave. Io credo che questo, io non sono un esperto di sicurezza portuale, ma credo che sia forse più pericoloso che non. E poi è chiaro che insomma sono prodotti che vanno trattati come tantissimi prodotti chimici che attraversano i porti civili, e incluso quello di Gioia Tauro, vanno trattati con delle procedure standard di sicurezza che presumo verranno. Perché la nave americana, chiede qualcuno, non può andare a prendersela in Siria? Credo che sia una questione, ma correggimi se sbaglio, di relazioni internazionali? Sì, l'accordo che i russi hanno, che grazie alla mediazione russa venne trovato per evitare l'attacco militare l'estate scorsa alla Siria, e in cambio dello smantellamento, della consegna dell'arsenale chimico di Bashar Assad, era un accordo che prevedeva, ed era una clausola voluta dai siriani, che le loro armi non finissero negli Stati Uniti e non venissero consegnate agli americani direttamente dalla Siria. Sì, certo, diciamo, anche la diplomazia in questo senso. Ma sì, insomma, gli americani volevano bombardare Bashar Assad, ancora oggi dicono che se ne deve andare, insomma, per lui è anche una questione forse di orgoglio di dittatore, di orgoglio nazionale, quello di... No, ma certo, contano anche queste cose. Allora, la questione è, queste armi, abbiamo detto, sono state neutralizzate, cioè, ecco, non sono armi chimiche, la pericolosità, sono componenti di armi chimiche, perché molti hanno detto, ma scusate, materiale chimico viene distribuito e viene trasportato tutti i giorni con le norme di sicurezza su tutto il territorio nazionale. Quindi da questo punto di vista il rischio come è quantificabile, Gianandrea? Guarda, secondo il mio punto di vista il rischio c'è sempre in qualunque porto, quando si muovono materiali chimici, cioè materiali pericolosi, tossici, è il rischio di un incidente sul lavoro. Sono cose che possono accadere in qualunque contesto, e credo che sia un rischio che ci può essere anche qui. Il rischio che però a mio parere è più alto, ed è qui ho avuto proprio forse un errore di comunicazione, è il rischio che la presenza pubblicizzata con così ampio anticipo di questi prodotti dentro un porto italiano, con il clamore che questo disarmo chimico sta avendo e l'interessamento di tante organizzazioni, anche molte terroristiche, alcune delle quali attive in Siria, ma non solo in Siria, abbiamo visto che questa azione nel porto italiano di Gioia Tauro possa attirare l'interesse di gruppi terroristici, ma anche solo di gruppi di contestazione violenta, pensiamo a quelli attivi in Val di Susa per la NOTAM. Insomma, io credo che ci sia all'origine di queste polemiche un errore di comunicazione. Sì. Da un lato si sono informati in maniera sbagliata tramite un'agenzia di stampa e le autorità locali, che forse si potevano informare in maniera riservata, con ampio anticipo, chiedendogli però di non rendere nota la cosa se non a pochi giorni dall'inizio delle operazioni di carico-scarico. In questo modo ci saremmo risparmiati un sacco di problemi e forse anche qualche attenzione da parte di gruppi che non sono certo ben intenzionati. Poi bisogna capire che succederà in mare, ma lo faremo tra poco. Siamo con Gianandrea Gaiani, dopo le informazioni sul traffico ci sono anche gli ascoltatori, poi parleremo magari anche qualcosa dei Marò, perché Gianandrea, questa vicenda ovviamente suscita molto scalpore da parte degli italiani, che dicono, ma com'è possibile che da 2 anni non riusciamo a risolvere, a fare un passo in avanti per la situazione dei 2 fucilieri in mano agli indiani. Tra poco. 24 mattino. Allora, eccoci ancora qui con Gianandrea Gaiani. Intanto, cosa vuol dire che verranno smantellate in mare? In mare, cioè, che vuol dire proprio fisicamente? Verranno smantellate con procedimenti e poi buttate in mare? Questo almeno non ce l'hanno detto. Non credo. Su questa grande nave ausiliaria della Marina degli Stati Uniti sono stati installati due sistemi di idrolisi, sistemi campali, quindi mobili, che sono di proprietà del del Pentagono, sono sistemi concepiti per effettuare in qualunque area del mondo, li puoi trasportare con dei container su un aereo da trasporto, installarli ovunque e iniziare lì un'attività che è quella, per semplificare, di scissione dei diversi componenti, in modo da renderli, diciamo, da ripulirli, renderli meno tossici, e poi questi rifiuti, i risultati di questo processo verranno poi caricati su altri container, inviati, non ci hanno ancora spiegato come, se via nave o via treno, in alcuni paesi, in Gran Bretagna sicuramente arriveranno via nave, in Germania forse con altri sistemi, dove delle aziende private li distruggeranno, che sono specializzati in questo settore, li neutralizzeranno definitivamente. C'è un processo di smantellamento dei prodotti chimici militari, di impiego militare, che poi vengono consegnati, di smaltimento dei loro rifiuti. Ovviamente una situazione, un'operazione delicata, però un'operazione per la quale gli italiani, che sono coinvolti parzialmente nel passaggio a Gioia Tauro, possono, mi sembra, poter dire, stare tranquilli. Io vorrei sentire un ascoltatore, Salvatore della provincia di Milano. Buongiorno Salvatore. Buongiorno, senta, io vorrei fare una semplice domanda, vorrei sapere dal ministro Bonino che a momenti in Alsavia il Gran Pavese, quando è riuscita a far rientrare in Italia quella donna del Kazakistan, praticamente ha fatto festa, volevano quasi dichiarare la festa nazionale. Poi adesso si sta adoperando, si sta facendo in quattro per i profughi di questa città, di Homs, che devono in Siria, che devono evacuare. Però vorrei sapere, per i marò italiani, dopo 2 anni che cavolo stanno facendo? E poi un'altra semplice domanda. Secondo lei, questa è una domanda che faccio a lei, se questi 2 soldati italiani fossero stati tedeschi, inglesi, americani, israeliani, lei pensa che sarebbero ancora in India? No, guardi, ma lì, Salvatore, il problema è all'inizio. Questa nave non doveva tornare in India. Questo è il problema, Salvatore. Non erano in India, li hanno, non so se poi Gianandrea Gaiani mi può aiutare, o attirati o convocati, dicendo: è successo un incidente, dovete presentarvi al porto perché dobbiamo verificare se... c'erano altre navi, nessuno è tornato al porto. L'unica nave che è rientrata in porto per fornire chiarimenti è stata la nave italiana. Risultato: da quel momento, Gianandrea Gaiani, è partito il disastro. Non so, mi sbaglio. Però guarda, il disastro è partito da lì. Però attenzione, i dati, i dispacci dimostrano che la nave italiana aveva dichiarato un tentato attacco pirata. Le autorità indiane gli hanno detto: venite in porto che verifichiamo, in base alla vostra denuncia abbiamo fermato un'imbarcazione, verifichiamo la corrispondenza. L'India era un paese alleato nella lotta alla pirateria, benché sia un paese che cerca di nascondere da anni, giocando al ruolo di grande potenza, la drammatico problema della sua pirateria interna, che è una pirateria più straccione, fatta da pescatori che vanno a saccheggiare le navi alla fonda davanti ai porti. E ovviamente questo fa molto paese del terzo mondo e non è una cosa che gli indiani pubblicizzano volentieri. Per cui io penso che fosse impossibile in quel momento per le autorità che hanno autorizzato la nave, quelle italiane, ad entrare, e anche per il comandante della nave, immaginare che ci fosse una trappola dietro, perché guarda, io sono convinto che sia una trappola, perché non abbiamo bisogno di aspettare 2 anni, tra parentesi, mandare una commissione di parlamentari, scusami, dopo 2 anni. Sì, vabbè, ma la commissione di parlamentari è qualcosa, è una mossa. Ci volevano andare i grillini, allora non si voleva lasciare al Movimento 5 Stelle l'esclusiva. Mi sembra, voglio dire, un ulteriore esempio di gestione raffazzonata, improvvisata. Ma tra l'altro, però, la domanda che faceva l'ascoltatore, a dire: è possibile se fossero stati americani, israeliani? Io sono convinto che gli americani non sarebbero rientrati, forse neanche gli israeliani, non lo so, magari. Posso dire questo, che non parliamo di militari, però in questo momento in India sono prigionieri dei contractors, che sono privati, ex militari che lavorano per una società americana di sicurezza, che fanno scorta antipirateria, sono prigionieri, contractors inglesi, estoni, ucraini, catturati con un metodo altrettanto subdolo dagli indiani, erano in acque internazionali, gli hanno chiesto consigliato di entrare sotto costa nelle acque italo-indiane perché stava arrivando un tifone, questi si sono fidati del meteo indiano, sono entrati in queste acque, le autorità indiane li hanno arrestati perché sono entrati nel territorio indiano abusivamente, ovviamente con armi, perché ovviamente a bordo avevano le armi, e senza autorizzazione a portare le armi. Sono ancora in galera, non sono militari, sono contractors privati, e questo sta creando comunque qualche problema. Sì, però come, Gaiani, come si può risolvere la situazione? Perché nei giorni scorsi sui giornali, anche il Corriere della Sera, Libero, cioè parlavano di, come dire, nessuno evocava blitz militari o cose del genere, ma ritorsioni forti sì, cioè a dire dobbiamo dare dei segnali forti. Ma che vuol dire poi dare dei, a meno il ministro Emma Bonino prima ha detto non ho capito a che cosa si riferisce chi propone questa cosa, segnali forti cosa sarebbero in concreto? I segnali forti in questi casi sono, noi abbiamo accettato già troppo dall'India, addirittura abbiamo accettato che la Corte Suprema di questo paese chiedesse al governo di istituire un tribunale speciale e adesso ha chiesto a questo governo di muoversi a decidere quali sono i capi di imputazione. Cioè, siamo di fronte a una situazione in cui il governo, i ministeri indiani litigano per discutere quali capi di imputazione applicare ai nostri soldati, che è roba assolutamente inaccettabile perché non esiste nessuno ordinamento giuridico mondiale o comunque insomma riconosciuto dai paesi, vogliamo chiamarli civili. Allora di fronte a questo l'unica soluzione che può avere un paese è la rottura delle relazioni, è non accettare la sovranità indiana, perché noi di fatto accettando il processo in India accettiamo il diritto indiano di processare i nostri Sì, ma quali relazioni? Lì non è neanche il governo centrale indiano. Adesso quindi... perché adesso la palla non è più in mano al Kerala ma alla Corte Suprema, quindi al governo federale, ed è in mano una situazione. Cioè arrivare addirittura che ne so a ritirare l'ambasciatore, a rompere. Però questo cosa vuol dire? Aveva fatto subito, fatto oggi fa un po' scappare da ridere. E soprattutto noi ricordiamo che erano qui in Italia, ecco quella mossa credo un anno fa, quando tornarono a Natale, di restituirli, per cui il ministro degli esteri allora, credo Terzi, si oppose, ci furono problematiche, ci furono polemiche a non finire, fu un errore, ecco quello sicuramente gli americani non l'avrebbero mai fatto. Ma nessuno l'avrebbe mai fatto perché non si consegnano i propri soldati. E poi ti dirò, io sono l'unico esponente del nostro governo che lo ha detto a chiare lettere, e io ne sono convinto, la penso come lui, è il ministro della difesa Mario Mauro, che ha detto chiaramente i Marò sono innocenti. E noi, se noi guardiamo il giorno dopo, il giorno stesso di quell'incidente, nel 2012, guardiamo l'intervista alla TV indiana del comandante di questo peschereccio, che ha detto mi hanno sparato la notte scorsa alle 21.30. Su questo però Gianandrea, nel senso, è una convinzione, cioè dovrebbe esserci stato già un processo almeno a capire chi ha sparato. Se avessero avuto qualcosa in mano ci sarebbe già stato, voglio dire, dopo due anni non c'è un capo d'accusa. Sai cosa temo io? Il vero timore è che loro non presentino i capi d'accusa perché vogliono in aula i Marò. L'altro, qualche giorno fa, due settimane or sono, i Marò non erano in aula. E questa è stata una cosa criticata dalle autorità indiane e dalla polizia indiana. Io credo che il rischio sia che una volta che i Marò, che adesso vivono nell'ambasciata italiana, sono in aula, vengono presentati i capi d'accusa pesanti, viene richiesto il loro arresto. Sempre più tesa. Io, Gianandrea Gaiani, ti ringrazio, grazie per essere stato con noi, hai fatto chiarezza su tanti temi legati agli internazionali, ma anche legati anche all'Italia. Voglio salutare anche Pietro Tidei, che è due volte parlamentare, due volte sindaco di Civitavecchia, ex consigliere regionale del Lazio, è due volte che stiamo cercando di fissare un appuntamento con lui, e dice una volta aveva la febbre, oggi ha detto sicuramente sarò con voi a parlare dei vitalizi della regione Lazio. Che dobbiamo fare? Cioè, noi la stiamo chiamando, il cellulare non suona, è spento, su. Andiamo a chiudere. Stasera torno su 7 Gold, se volete. Funamboli, mi trovate alle 21.10, E noi ci troviamo domattina qui a Radio 24, alle 6.30. Ciao. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.